lasciate perdere. In studio ci sono tutti allenatori bravi, professori, scienziati. Vado via. Questa è una grande crisi, siamo in piena crisi, in grande crisi, quindi bisogna fare grandissima attenzione, sarà molto difficile rivincere lo scudetto in Italia. Questi mesi cosa hai fatto? Viaggiando molto e fatto un film. Tutti convocati, di Carlo Genta. Valeria Marini, nulla, non hai requisiti, nulla. Claudio Sabelli Fioretti, Santo Versace, Veronica Lario. Male, un disastro. Ragazzi, un presidente non ce l'abbiamo, un governo neanche. Franco Piantanita, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia. 800 24 0024, vostro numero verde, in attesa di capire se il conte Lello Mascetti potrà essere eletto presidente della Repubblica, o Valeria Marini, o Veronica Lario. Veronica Lario, tanta roba. Quindi un presidente non ce l'abbiamo, un governo neanche, e allora i punti di governo li facciamo noi, i 5 punti della settimana secondo noi. E che cavolo, ogni micro partito fa, ogni micro formazione politica fa i punti di governo. Ebbene, vi chiediamo di votarci la fiducia. Tanto saluto e ringrazio il mio amico Pierluigi Pardo da Mediaset. Ciao ragazzi, come va? Trapattoni è stato inserito nella lista. Ti prometto una poltrona. Trapattoni, posso dire, è una provocazione, ma sì. Insomma, Trapattoni parla di lingue, è stimato a livello internazionale, certo. Una persona rappresenta il volto positivo dell'Italia, unirebbe tutti, ecco, poi unirebbe una battuta, è ovviamente una battuta. È una battuta che nel paese dei cacchi ci sta benissimo. Senti, allora, 5 punti della settimana calcistica insieme a te. Il primo è questo. Io credo che, conosco un pochino, gli infortuni mi sembrano un pochino troppi, no? I recuperi mi sembrano un po' troppo lunghi. Erroriali? Sì. Erroriali. Allora, un impegno concreto, trovare un dottore per l'Inter. Sì, o forse anche un preparatore. Guarda, adesso il punto... sulle colpe dell'Inter, la percentuale, la ripartizione della torta delle colpe dell'Inter, insomma, è un dibattito abbastanza appassionante, nel senso che è chiaro che c'è una serie di cose clamorose che sono successe, sicuramente ci sono delle lacune di mercato, sicuramente c'è stato un fattore infortuni eccessivo, alcuni di natura traumatica come quello di Milito, la stragrande maggioranza di natura muscolare. E quindi io credo che questo sia un elemento forse più che di medico, perché il medico alla fine è quello che li deve curare, semmai, quindi magari può rispondere delle ricadute, può rispondere di mancata diagnosi, c'è più un punto di preparazione, perché se poi tutta la squadra si fa male continuamente, gente che non ha mai avuto problemi muscolari prima soffre, allora vuol dire che qualcosa non va. Io lo ripeto tutti i giorni, però, e stufo la gente, però Benitez aveva detto, ma questi sono abituati ad allenarsi in modo strano, c'è chi va in palestra per i fatti suoi, c'è chi fa allenamento differenziato, poi ci sono due velocità nel gruppo, c'è la parte anziana che ha bisogno di non forzare più di tanto, c'è quella giovane che avrebbe bisogno di allenarsi di più, quindi bisognerebbe capire quali sono anche le dinamiche interne all'Inter. Allora, secondo punto è questo. Presidente, per colpo di Stramaccioni? No, mi sembra che proprio in questo momento qui, ripeto quello che ho detto l'altro giorno, non posso fare un'analisi di una persona che ha a disposizione un terzo di quello che avrebbe dovuto avere. Lei conferma ancora Stramaccioni, però si leggono sempre nomi di possibili alternative, cose. Questi li scrivete voi, perché nessuno ha contatto con nessun allenatore, quindi questi li leggo anch'io sul giornale, ma niente di più. Allora, la Margherita, che Moratti sfoglia, strama o non strama? Io credo che Moratti sia legato a Stramaccioni, credo che lo stia difendendo forse in maniera onore, esatto. Più di quello che magari si poteva pensare, esatto. Credo che ci sia un motivo di fondo di empatia e di scelta che lui ha fatto con molto coraggio un anno fa, o poco più di un anno fa, quando ci fu l'accordo per la rescissione con Ranieri. Evidentemente è una scelta che lui sente molto sua, e quindi in pratica esonerarlo significherebbe un pochino aver riconosciuto di aver sbagliato. Credo che da qui alla fine della stagione di cose ne possano succedere, cioè non giurerei sulla permanenza di Scamaccioni l'anno prossimo. Credo che sia anche un discorso di budget da capire, cioè questi famosi soldi dei russi che arrivano alla Saras, che in un meccanismo di vasi comunicanti dovessero arrivare anche all'Inter, darebbero forse margini ulteriori e migliori per fare un'altra scelta. Detto questo, io credo che Scamaccioni non sia il principale responsabile. Ha ragione Moratti quando dice che questo sta allenando mezza squadra, però onestamente quella sensazione di entusiasmo, di normalizzazione dell'inizio dell'anno, ecco, io non la vedo più. Sì. Mi sembra che abbia fatto tanti esperimenti, abbia cambiato tanti tipi di difese, ma insomma. Sì. Ultimamente mi sembra ci stia capendo poco, ripeto, non è solo colpa sua, ci mancherebbe altro. Sai, magari serve anche l'esperienza quando ti trovi in difficoltà, serve anche non inventare nulla e andare sulle cose semplici, serve anche forse fare quello per cui si è offeso, cioè certe volte essere provinciali, no? Quindi in situazioni di emergenza è così, che poi era il senso la caratteristica bella dell'Inter di inizio stagione, perché certo, al di là di qualche partita, penso a, ovviamente a Juventus Inter, a Inter Fiorentina, insomma l'Inter non è che facesse un calcio straordinariamente bello, però faceva un calcio molto efficace all'inizio della stagione, che funzionava soprattutto fuori casa quando c'era un po' più di spazio per ripartire, però poi quella fase lì è finita e devo dire che da febbraio in poi, dall'infortunio di Nito in poi, si è anche accanita la sfiga, questo è evidente, però anche lì la sfiga evidentemente si accanisce, perché tu dovevi comprare un vice Milito e non l'hai comprato, ce l'avevi ed è Levi e l'hai mandato via perché a tutti i costi volevi comprare Schelotto, sì. E poi a quel punto quando ti si fa male Milito non è più difese. Certe volte la sfiga ci vede benissimo ed è meritata. Esatto. Dici tu. Senti amico mio, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico e poi esauriamo i 5 punti di governo, ne abbiamo ancora 2. Ok, cazze inside, ovvero non dire gatto, il resto l'abbiamo capito, il resto lo si sa. Tutti convocati. E io vi convoco come ogni giorno, 800 24 00 24, tra poco comincio a parlare con voi, però voglio esaurire il discorso dei 5 punti, non le 5 stelle, 5 punti con Pierluigi Pardo. Ringrazio chiunque l'abbia detto, ma non mi reputo né tra i più forti né tra i più scarsi. Io sono io, vedo in me stesso un miglioramento e cercherò di migliorare sempre di più, ma comunque ringrazio chi dice questo, ma non giudico queste cose come ti dico. Allora trattiamo anche di temi importanti, Pierluigi, come la riforma della giustizia, in attesa di questa riforma che non arriverà mai e di processi criminali tutti da rifare, leggiamo in questi giorni, sarà sconto per Balotelli oggi oppure no? Ma io credo che uno sconto ci sarà, ma sarà di una giornata, quindi alla fine saranno 2 invece che 3, molto salomonicamente. 3 giornate in effetti sono tante. Sì. Quello che c'è scritto nel referto, immagino qualcosa di terribile, perché per dare la posizione era questa. Io penso che salterà la Juve e tornerà col Catania, così, ma è veramente un pronostico tipo Delma, quindi potrei tranquillamente sbagliarmi, con tutto rispetto per Delma che lo salutiamo. però a parte tutto, io credo che insomma Balotelli è sempre personaggio, sta migliorando sicuramente dal punto di vista caratteriale, al Milan stanno facendo un lavoro eccezionale per ricostruirgli o migliorargli l'immagine. Di fondo un ragazzo buono, semplicemente un ragazzo che ha degli sbalzi d'umore, delle volte insomma no, delle uscite un po' esagerate, ma a me gli irregolari piacciono, quindi insomma in bocca al lupo. Sul fatto che sia completamente cambiato, io non ci ho mai creduto e non ci credo, nel senso che poi secondo me questo è anche il bello di questi personaggi così. Ma certo. Altrimenti il calcio è bello perché ci sono tutti, no? Perché c'è Ariè Stanetti che da 20 anni gioca sempre con la stessa professionalità, i capelli pettinati nello stesso modo, e poi ci sono pure gli irregolari che delle volte fanno dei casini, ma gli vuoi anche bene per questo. Che a me piace da morire vedere a 11 insieme a te, gli irregolari soprattutto. Non è irregolare, trapattoni, ma lunedì sera viene. Lunedì sera al trap? Beh, qualche momento di irregolarità ce l'ha avuto. Proponigli una poltrona, dai. Tanto adesso sono tutte disponibili. Vieni, sei invitato, Sarri, sei convocato. Visto che il linguaggio è questo. Allora, questo? Io penso a un derby giocato di giorno a fine di maggio, da rabbrividire, io credo, ma non per il pericolo degli incidenti, ma da rabbrividire per la gente che viene a vedere e per chi lo deve giocare. Credo proprio che sia andare contro a una festa dello sport e non mette nella condizione nessuno di poter gioire e esprimere il massimo, perché tu la possibilità di esprimere il massimo gliela togli. Allora, non ci interessa la data delle prossime elezioni, ma sono cominciati gli exit poll sulla collocazione del derby di finale. Sì, beh, insomma, io non sarei così estremista, nel senso che non è che se giochi il 26 maggio, quando sarà, esatto, alle 5 del pomeriggio. Non mi pare una questione epocale, Esatto. Però al tempo stesso a me sembra che, insomma, non giocare di notte, perché l'incidente dell'altro giorno, visto le immagini, si vedeva benissimo, sono avvenuti al 18 di un giorno di aprile con la luce dopo l'ora legale, quindi con una luce assolutamente piena, e non ci sono stati invece nel post partita, che quando era buio, quindi secondo me illudersi, cioè se bastasse questo, io ti direi pure giochiamo a mezzogiorno, se ci fosse la certezza matematica che giocando a mezzogiorno non ci sono tafferugli. Ma quanti anni sono che si fanno questi discorsi, Pierluigi? Ma sì, quanti anni eravamo piccoli, che si facevano questi discorsi. Sì, guarda, il punto è molto semplice, ci sono delle persone che giocano un altro gioco, sì, e questa è la verità. Chiaro. E io sono convinto che Roma e Lazio faranno tutto, vista l'eccezionalità della situazione, faranno di tutto per fare la partita nel migliore dei modi possibile, per stemperare le polemiche. Sono straconvinto che la stragrande maggioranza dei tifosi, anche di curva, perché poi la curva ovviamente è anche aggregazione, è anche solidarietà, non è soltanto sempre soltanto cose negative, spesso è anche cose positive, quindi io sono convinto che gran parte delle persone, la stragrande maggioranza dei tifosi, anche dei più estremi di Roma e Lazio, si comporteranno bene. Bisognerà capire se qualcuno vorrà fare un altro gioco, che non è andare a vedere la partita ma fare la guerra. E questo concetto è molto semplice: chi vuole fare la guerra deve essere preso e deve pagare, ma è la sostanza, non è un accanimento nei confronti del calcio. Certo. Lo stesso discorso vale in Piazza di Spagna, in Piazza del Duomo. Ma anche perché io insisto nel dire, con una posizione un po' estrema, che queste cose con il calcio non c'entrano, cioè sono un pretesto per altre guerre di potere, per altre battaglie di potere che sappiamo esserci all'interno delle curve del calcio, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontanissimo. Mentre io... La partita, in 20 secondi, la partita ha chiaramente delle complessità logistiche, organizzative, lo stadio verrà diviso a metà, una delle due squadre dovrà prendere la tribuna Tevere, l'altra la tribuna Montemario, immagina la premiazione di fronte ai tifosi rivali, ci sono degli attriti, ma insomma io Roma la conosco come la conosci tu, alla fine è grande passione, grande entusiasmo, grande sfottò, ma il 99,9% delle persone la vivrà come forse come il giorno più importante dell'anno, ma la vivrà comunque con le labbra, io ne sono assolutamente convinto. Il problema è capire che cosa hanno in testa, quelli non normali, gli anormali. Il punto è quello, e io non penso che gli alle 3 del pomeriggio chi vuol venire a fare la guerra non viene perché ha altro da fare o perché fa caldo e suda, insomma, mi sembra difficile. Però detto questo, la polizia ha una responsabilità, no? Nel senso che poi alla fine è responsabile del bene e del male dell'ordine pubblico. Sì. Quando sbaglia deve chiaramente pagare anche lei. Quando sbaglia, mi riferisco a storie più grosse che sono successe. Quando si comporta bene, merita tutti gli errori possibili. E nel momento nel quale dice che quella cosa può aiutare, bisognerà semplicemente dargli ascolto. Certo. Allora, Pierluigi Pardo, l'ultimo punto è della settimana è questo. No, prossima stagione non torno. Il mio prossimo club non sarà sicuramente è l'Inter. Abbiamo fatto una bella partita davanti a una grandissima squadra, cercando di fare il nostro gioco, dimostrare le nostre qualità. Diciamo, per buona parte della partita ci siamo riusciti, questa è la migliore notizia. Allora, rimpasto di governo sulle panchine d'Europa, Mourinho, Ancelotti, Mancini, probabilmente Allegri, anzi secondo me anche Allegri. Dove vanno? Io penso che Mourinho possa scegliere, come sempre o quasi nella vita, e quindi potrà scegliere tra Chelsea e Paris Saint-Germain. Sì. Che Ancelotti sia assolutamente il primo obiettivo del Real Madrid. Sì. E che lì bisognerà capire il gioco degli incastri, perché lui ha una penale dal Paris Saint-Germain, per cui un conto è se il Paris Saint-Germain vuole anche cambiare, Un conto è se invece rimane col cerino in mano, vuol tenerlo, a quel punto può diventare complicato e bloccare un po' la dinamica. Ha detto questo Real Madrid dai soldi per fare una guerra, per cui insomma può fare quello che vuole. In Italia mi sembra che Mazzarri sia l'allenatore che sta tenendo un po' tutti sulla corda, ha avuto una proposta molto importante dal Napoli per rinnovare, e da quello che risulta non ha ancora accettato questa proposta. E Roma e Inter, secondo me, nonostante tutto, da quello che so io, un sondaggio l'hanno fatto, e Mazzarri ha detto che vuole aspettare ancora fino alla fine del campionato, quindi di dinamiche aperte ce ne sono parecchie. Tu dici Allegri va via? Secondo me sì. Allora, La Roma, l'accostamento a Roma non mi sembra casuale, è rimbalzato, no, diverse volte. Questo sono d'accordo, io credo che ad Allegri possa interessare la Roma. Detto questo, penso che sia difficile lasciare il Milan, anche con qualche ingerenza e qualche battuta di troppo che Allegri nel passato ha dovuto sopportare, sì. Però insomma, di contro Allegri ha avuto sempre una squadra competitiva, una società con le spalle molto larghe, per cui sicuramente lui è attratto da Roma, su questo non ci sono dubbi, ma che lasci il Milan con il Milan che gli chiede di rimanere, che è convinto che sia ancora l'uomo del futuro, mi sembra beh, bisogna vedere se il Milan gli chiede di rimanere, perché bisogna essere in due, mi sembra che la fiducia lì non sia pienissima, servirà una consultazione, servirà il voto di fiducia del Parlamento. Chi diventa Presidente della Repubblica? Questa è la domanda. Pierluigi Pardo? No, guarda, Giuseppe Garibaldi? Non ho l'età, non ho l'ambizione, non lo posso capire. Garibaldi mi sa che è andato. Pare Prodi, ma non si sa. Vedremo il pomeriggio. Sarà un lungo pomeriggio di passione su Radio 24. Sarà un lungo pomeriggio di passione su Radio 24, certo. Saranno giorni di passione e aspettiamo di avere un nome, almeno un Presidente della Repubblica, se il governo ancora non c'è. Grazie per Luigi. Ciao ragazzi. Sempre un piacere. No, grazie per Luigi Pardo. Al volo gli ascoltatori 80024. 0024 sono subito da voi. Fabio, provincia di Brescia. Sì, ciao Carlo, grazie per la comunicazione. Grazie a te. È poco che ho scoperto il tuo programma, circa due mesi, ma veramente complimenti, perché è veramente una bella trasmissione. Passa parola. Sì. non c'è bisogno, chi ti ascolta capisce da solo, non c'è bisogno, sì. Guarda, non sto leccando il culo parlando proprio, ma è così, guarda, veramente, veramente complimenti. Niente, vabbè, grazie. Ho sentito l'introduzione del programma, e meglio la tua trasmissione che i teatrini della politica. Solo una cosa, volevo sapere da te un'opinione sul prossimo Milan, grazie. Un'opinione sul prossimo Milan. Intanto ti faccio risentire l'introduzione del nostro programma. No, non me la fai. No, ma non mi fanno risentire l'introduzione del programma. Ma quando estraggono il foglietto con Valeria Marini, sì. penso che la politica sia, cioè, capito? Beh, Rocco Siffredi e Raffaello Mascetti. Quella l'ho letto sulla Gazzetta stamattina, sono praticamente ridicoli. Amici miei, è uno dei miei preferiti di ogni epoca, quindi meglio il nostro malato calcio, che guarda. Allora Fabio, grazie a te, un'opinione al volo sul Milan. Insomma, il Milan arriverà in Champions League e questo mi sembra già tanta roba. Mi pare che il Milan abbia imboccato, deve ringiovanire molto, mi sembra che abbia imboccato la strada della ricostruzione, cosa che ancora manca all'Inter. È evidente che servono tanti giocatori e non conosco quali siano le disponibilità i programmi della proprietà. Certamente è una squadra incompleta ad alto livello, vedremo se in estate verrà completata. Devo fermarmi? Per forza? Quindi Dario da provincia di Varese dopo la borsa? Vabbè, mi spiace. Dario, aspetti lì, tanto noi ci siamo. Grazie, anche lei si la trova così, è vero. Andrea Zoli, posso dire, vedo che è arrivata la primavera, complimenti. Grazie, lei... Convocati. Snyder'ın taktiğiyle yemekleri de Adana'dan. Çok güzel, çok. Önce kebaba ince bir çatal darbesi. Lahmacunu geçiyor ve karşısında çiğ köfte. Yes, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Acı seviyorum. Bu harareti ancak Lipton Ice Tea alır sayın seyirciler. Very good, man. I love spicy, I love spicy. Questo è uno spot che Snyder ha girato in Turchia, non è ancora bene esplosa Galatasaray, in compenso si ingozza di kebab in questa in questa imperdibile pubblicità, un po' diversa Dario Stialì, un po' diversa la dieta di Esharawi. Ma io mangio molto sano, cioè pasta in bianco, bresaola, petto di pollo. Ma hai un cibo che ti piace particolarmente e proprio non riesci a resistere? Ma no, no, non ce ne sono. Quindi kebab per Snyder, dieta alla Inzaghi per El Shaarawy. Allora, Alemanno, notizia dell'ultima ora, cosa ha detto Alemanno? Anticipare date e ora della finale di Coppa Italia, ha detto in Consiglio dei Ministri oggi al prefetto che sarebbe opportuno anticipare questa partita, il derby di finale di Coppa Italia, appunto, visto che non la si può posticipare perché cadrebbe il 2 giugno. Questo ha detto Alemanno, che derby fissato per il 26-5 sarebbe giusto giocare, anticipare l'orario della partita. Vabbè, siamo alle questioni politiche che saranno lunghe e faticose, come sempre accade. Tanto per la cronaca, Ferrari che va fortissimo in Bahrain, Massa primo tempo nelle prime prove del mattino, secondo Alonso a soli 77 centesimi di secondo, poi Rosberg, Vettel e le altre, ma siamo solo all'alba di questo weekend motoristico che prevederà, come sapete, anche la seconda tappa del Moto Mondiale ad Austin, Texas. Dario, eccoci finalmente. Sì, buongiorno. Grazie. Io volevo tornare al discorso prima dell'Inter. Sì. È vero che le responsabilità sono tante, da Moratti, da Auriali mandato via, Branca che non è in grado, insomma, tutte queste, ma l'altra sera è solo ed esclusivamente colpa di Stramaccioni, perché hai una squadra limitata coi giocatori, hai avuto la fortuna di fare un primo tempo bello, facendo un gol, andando in vantaggio, ti basta, mi spiace, il primo che esce dall'area lo fucilo, tutti dietro per un tempo, perché al 26 maggio avremmo riavuto Cassano, Palacio, la squadra, si poteva vincere la Coppa, si poteva andare a giocarcela con la Juve, la Supercoppa, quindi si doveva fare tutto, invece è inesperto. E questa è l'unica, è la responsabilità. Avevi una partita, neanche una partita, mezza partita da fare. Certo, ma io sono abbastanza Murillo, d'accordo con lei. Ha parlato prima Mourinho, avrebbe fatto di tutto, ma il primo che uscì, e lasciavi Rocchi, poverino, cosa deve fare? Da solo davanti, sì, la sì. Prendi, la porti su e tieni il risultato. Sono abbastanza d'accordo, anche perché i cambi anche tattici di Stramaccioni nella ripresa sono quelli che hanno messo in difficoltà l'Inter, ne abbiamo parlato anche ieri, quindi su questo punto sono abbastanza d'accordo. Non so se sia inesperienza, certamente un pizzico di presunzione, questo non lo lascio giudicare a voi. Quanto lei dice non è infondato dal mio punto di vista, perché certe volte bisogna essere brutti, sporchi e cattivi e portare a casa il risultato, soprattutto in situazioni di difficoltà, di emergenza assoluta come era quella dell'Inter. 800 24 00 24 è il vostro numero verde per intervenire e siete convocati sempre. Adesso è il momento, come ogni venerdì, di parlare un po' di basket, perché ci sono i playoff NBA, perché ci sono e li sto seguendo i playoff dell'Eurolega, che sono meravigliosi, ma partiamo questa volta dagli USA. Prende il tiro da tre, lo mette, colpo da giocatore di biliardo al tabellone, più due mezzi, la partita si accende, la serie decolla. Il palleggio per Michael Jordan è al spazio, tutti lo aspettano, può essere l'ultima azione della sua carriera NBA. Michael Jeffrey Jordan! Eccolo qui Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buondì. Sto leggendo i tweet di Kobe Bryant sui 5 T di Kobe Bryant sulla Gazzetta dello Sport a proposito dei Lakers, ad esempio: playoff promessa mantenuta, possiamo smetterla di parlare della cessione di Gasol ora? Domanda Kobe Bryant. Certo, i Lakers sono passati dalla cruna del lago nella maniera più complicata, partita quasi in mano con Houston, partita riaperta e riregalata, supplementari, Pau Gasol porta tutti a scuola e i Lakers vanno ai playoff sciogliendo il nodo gordiano di questa stagione fin qui. E adesso manca l'ultima puntata La logica dice che non c'è maniera di sovvertire il pronostico dopo che hai fatto una stagione così e dopo che i tuoi avversari hanno fatto una stagione così. Però logica e Lakers nella stessa frase, non li metterei sempre no. molto vicini. No, con San Antonio è ovvio che esiste un favorito ed è un favorito chiaro, però sai, il problema vero è che il capo tribù non giocherà ovviamente questi playoff. Se no, io ti ho detto tante volte che i Lakers erano la squadra che poteva fare e disfare qualunque cosa. Questo di sicuro. Io penso che potrebbero fare e disfare anche senza il capo tribù, a patto che Steve Nash stia bene, che è un grosso dubbio. Però una cosa è sicura, San Antonio tira un respiro di sollievo nel non vedere il capo tribù, perché il capo tribù è veramente temuto, sacramente temuto in quel del Texas. Dall'altra parte è molto affascinante New York-Boston, con i Knicks secondi e Boston settima. Non sappiamo bene quali Boston Celtics ci saranno, e anche i Knicks comunque hanno qualche problemino di tipo fisico, tenuta eccetera eccetera, ma i Celtics hanno qualche problemone da questo punto di vista. Però poi l'idea di tutti è che si alza la palla 2 dei playoff ed è tutto diverso. È vero che è tutto diverso, però quello che è successo prima non è che sia avvenuto nel nulla, quindi avrà il suo peso. Sì, Denver Golden State mi sembra un accoppiamento buono per quelli delle montagne, peccato per Danilo ovviamente, però mi sembra un primo turno che ci si poteva augurare. È quello che volevano, era il loro miglior obiettivo possibile all'alba del primo gennaio, quando avevano 17 vinte, 23 perse dopo tutta quella raffica di partite difficili e in trasferta di inizio stagione. Hanno il vantaggio del fattore campo, è un avversario molto rispettabile ma non necessariamente di primissimissima fascia, però è un avversario che gioca un po' come giocano loro, che non ha niente da perdere, che ha la palla leggera, e loro per la prima volta hanno qualcosa da perdere, perché comunque Danilo o non Danilo una serie la vorrebbero davvero passare, sì. Quindi secondo me la passeranno, ma sarà meno facile di quello che ci si potrebbe aspettare. Sì, difficilissime da leggere Clippers, Memphis e Indiana-Atlanta. Indiana-Atlanta, io penso che alla fine Indiana ha più motivazioni, più profondità del roster e il vantaggio del fattore campo, alla fine penso che ci possa scappare fuori, come dicono a Bologna. L'altra non è facile da leggere, non è facile da leggere, e chi perde avrà di fronte un'estate molto molto più lunga dei canonici 3 mesi. Senti, per chiudere, lo zamparinismo si diffonde anche lì, bruciati, fired 3 allenatori, Byron Scott da Cleveland, Lawrence Frank, che non è più il coach dei Detroit Pistons, e il vecchio guru Doug Collins per i Philadelphia 76ers. Ma sono tutti nodi che erano già abbondantemente in giro, tra i capelli, vengono al pettine adesso, ma onestamente nessuna delle tre situazioni è particolarmente sorprendente e scioccante. Io penso che di queste squadre gli allenatori paghino il momento storico, che nel caso di Philadelphia è figlio di quelli che noi chiameremo investimenti sbagliati, e negli altri due casi è figlio semplicemente del fatto che dopo aver fatto benissimo, la logica NBA 98 casi su 100 ti costringe proprio a far malissimo per poi tornare a far benissimo, e se tu sei allenatore nel periodo del malissimo è una bella sfiga. Grazie Flavio, un abbraccio a voi. Ciao Flavio Tranquillo. Alessandro, provincia di Modena, prima del traffico. Sì, buongiorno, salve. Salve, dica. Ascolta, a me viene un po' da ridere un po' con gli interisti, fanno anche un po' di ridere. Quanti anni hai? Pronto? Quanti anni hai? Io ne ho 44. Ah, mi sembra più giovane. No, grazie. Prego. Comunque sì. Niente, a me fanno un po' ridere, dicevo, gli interisti, perché sono sempre lì che pensano ancora a Mourinho. Sì. Mourinho non c'è più, ragazzi. Bisogna guardare avanti nella vita, sennò si fa la fine del Napoli di Maradona, che sono ancora lì che pensano a Maradona e ho capito. Non si dice niente. Il problema è che Mourinho è andato via, mentre contratti da 150 milioni di euro di passivo negli ultimi 2 anni sono rimasti. Certo. Poi se lo ascoltavano all'Inter sarebbero arrivati Deco e Carvaglio, oltre alla famosa Trivela e anche a Coso, che era quell'altro che volevano comprare, anche a Mancini hanno comprato, ciò non era neanche un genere del mercato. Sembra quelle storie quando la fidanzata molla il fidanzato e dice stai lì, aspettami che tornerò. Il fidanzato innamorato è lì che aspetta e non si fa futuro. E ogni tanto, quella zoccola dice, dice ma torno, ma non l'anno prossimo. E loro sono lì che aspettano. L'anno sono dopo. Lì che aspettano e tutto va rotoli. Perché poi nella vita bisogna guardare avanti, ragazzi, cioè dai. Sì, bisogna guardare avanti, però bisogna anche vederci, perché mi sembra mi sembra che ci sia tanto fumo davanti agli occhi. Con un tradimento del genere, come si fa a stare lì ancora a bocca aperta? E quando c'era questo, guarda avanti nella vita, ragazzi, coraggio. Fallimento. Salve, ciao Alessandro, grazie. 800240024, vi adoro. Traffico, poi di nuovo qui. Vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare, fatti guardare. Tutti convocati. Allora, visto che è così difficile viaggiare, ascoltate Radio 24, ascoltate Tutti Convocati e soprattutto chiamateci 800240024, come ha fatto Maurizio da Brescia. Pronto, sono in linea? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Una domanda volevo farvi. Ma se il Milan perde con la Juve domenica e la Fiorentina vince, siamo così certi che poi Allegri finisca il campionato? Sì. Anche perché Berlusconi è un po' incazzato in questi giorni, no? Oggi soprattutto. Ma non è che se la prenda con Allegri poi. Cioè, il primo che perché gli capita secondo a tiro me andare appunto è quello che dice, il primo che gli capita a tiro, cioè arriva a casa, non trova di tirare con la moglie. Allora vado da Allegri. Con Allegri, assolutamente. No, Allegri rimarrà lì fino alla fine della stagione, poi non lo so. Io non però ci metterei la mano su. Rischia grosso sull'andare in Champions. Sì, la corsa non è finita, il Milan onestamente già da qualche settimana facciamo il doppio confronto con il Barcellona è in riserva di energie, ha bisogno di fare punti, ormai il Napoli mi pare fuori dalla portata, adesso si tratta di resistere e difendere questo terzo posto. Non sarà facile, ma secondo me Allegri li rimane fino alla fine della stagione, esattamente come Stramaccioni. Poi le partite che mancano sono ancora parecchie, sono 6. La Fiorentina, meravigliosa squadra, ma anche la Fiorentina un po' un divaga, quindi restiamo per fortuna almeno lì nel regno dell'incertezza, mentre per il resto mi sembra un campionato ampiamente deciso. Resta la battaglia per la salvezza, la festa scudetto della Juventus e quella dell'addio del Napoli a Cavani. Ma torniamo a parlare di basket. Well, now they gave mis orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. Altro che Monroe, Virginia, caro coach, stanotte, notte fonda, ho visto Panathinaikos Atene, Barcellona, 60-70, partita strana, incredibile, tu hai ripetuto molte volte la peggior partita in carriera di quel mostro assoluto che è Diamantidis, che la partita prima, cioè due giorni prima, aveva fatto delle cose pazzesche. Io adoro questi giocatori che dicono, vabbè, l'NBA, andate voi, io voglio essere il numero uno qui, di solito ci riesce, ieri sera no. Poi, innanzitutto, complimenti per la pronuncia di Monroe, Virginia, inglese perfetto. e devo dire che è una serie durissima. Io ho visto tante dei quarti finali di Eurolega 2 su 3, 3 su 5, ma una serie con più combattimento, cattiveria. Tu pensa che il presidente di Panathinaikos dalla Eurolega, della ULEB, ha preso una multa di 150.000 per i commenti sugli altri 150.000 euro, una fortuna, ok? Cioè, ci sono squadre che farebbero la squadra con i soldi lì, 4.000 euro, ok? Quindi per dire la cosa, un lavoro difficilissimo adesso per gli arbitri. Adesso torna a Barcellona per gara 5 e penso che Barcellona vincerà dopo aver passato la paura proprio palpabile, perché erano sotto 2-1, però ieri con grande fiducia, con grande sicurezza, con grande freddezza, non sono stati mai sotto neanche un secondo, 2-0, 4-0, sempre in testa. Gli altri sono stati pari una volta, 0-0. Sì. Quindi dominio totale di Barcellona. Attenzione però, perché a Barcellona diamanti di Sva, il fratello scarso, quello, il fake rimane ad Atene. Lui veramente mai pensato di vedere lui in una serata così. Cioè, beh, ma succede, no? Succedeva anche ad Antonio, a Meneghin, a Mecadou. Come no? Come allora. Succede. Però lui, per la verità, nella serie ha compiuto, sì, qualche miracolo, ma il famoso canestro da tre che ha sbancato Barcellona, fino a quel momento, negli ultimi 3-4 minuti della partita, lui era molto sottotono. Però hai ragione tu, Carlo. Lui, essendo quello che è super campione, avrà una reazione palpabile contro loro a Barcellona la settimana viene. Oggi alle 7 FS Pilsen, Olympiacos con Olympiacos avanti 2-1, ma mi interessa tantissimo, 20:45 sempre su Sport Italia, quindi risentirò la tua voce. Vittoria Cesca Mosca di Ettore Messina, serie 2-1 per Ettore, che ha perso l'ultima partita, ha fatto un commento tecnico preciso, cioè ci hanno rotto il culo, ha detto così, ha detto, per la verità, detto, ci hanno dato calci nel culo, è proprio in inglese l'ha detto, they kicked their ass. Analisi tecnica, cioè Ettore, mi ricordo quando Ettore allenava Benetton, è venuto Tau Vittoria, la stessa squadra che si chiama Caia Laboral Vittoria, lì con Ivanovic in panchina, si ricorda, e Nozione vinto di 39 e lui ha detto ci hanno asfaltati. E tre era maniera di dire le cose che è proprio terra a terra, quindi non trita le parole, come dice l'americano. Veramente lui ha pane, vino e vino, però una prestazione di Caia Laboral fantastica. Grande, e Cesca non è riuscito mai ad essere in partita, sono andati sotto, più sotto, fino a 33-34, se non sbaglio. E quindi l'analisi tecnica di Messina è stata perfetta. Coach, per chiudere, io dico Olympiacos, Cesca Mosca, e dico Panathinaikos a far compagnia Real Madrid. Tanto non mamma mia, uno. Che pronostico! Io anche per i primi due, ovviamente, hai ragione. Sì. Dico che adesso Barcellona ha passato la paura e avrà un altro tipo di prestazione. Giocano in casa e ci sarà il Pienone, che non c'era Pienone l'altra volta a Barcellona. Questa volta sì, perché all'Oaca tu hai visto 20.000 persone. Ho visto. Una cornice. Facciamo così, coach, un caffè. Ce lo scommettiamo io e te, dai. Ok. Ciao coach. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a coach Dan Peterson, Franco Piantanida, autore di questo programma, capitan Fabio Cantadori in regia. Domani il magazine dalle 17 alle 18. Ciao a tutti. Sarà un lungo pomeriggio di passione su Radio 24.